Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, antivigilia di Natale, siamo tutti affaticati nel preparare il nostro Natale, ma naturalmente c'è Natale e Natale. Oggi vi parlo di un aspetto particolare ed è quello che ci propongono due antropologi, che può essere addirittura un Natale tenebroso, infatti così si intitola il loro libro Tenebroso Natale, il lato oscuro della grande festa. Gli autori sono Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi. Il libro è pubblicato dalla Terza, 272 pagine, 16 euro. Quando vola lassù sul trabiccolo, con i suoi sacchi va, cosa porterà? Questo è quello che si sa. E nella notte lui con la luna va e cala su di noi come fanno gli avvoltoi. Buon Natale a tutti voi. Si parte nel libro dal film Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, di cui avete ascoltato alcune battute, un film sull'incubo di Natale nel quale si mette in contrapposizione il clima oscuro richiamato da Halloween con quello colorato, allegro e luminoso del Natale. Ma anche nel Natale ci sono degli aspetti soprannaturali, gotici o addirittura noir, per esempio i fantasmi che aleggiano in un grande classico di questi giorni che ho ricordato domenica scorsa, cioè Il racconto di Natale di Dickens, e tanti altri riferimenti si potrebbero fare per esempio anche a molti film. E allora il libro di Baldini e Bellosi è un viaggio in questi aspetti appunto tenebrosi, noir, gotici, misteriosi, che adesso ci facciamo spiegare da uno degli autori. Buongiorno Eraldo Baldini. Buongiorno. Eraldo Baldini, in questo libro che ha scritto con Giuseppe Bellosi, intitolato Alla grande festa, in realtà specificate che il periodo di cui ci occupate è quello che va dal 25 dicembre al 6 gennaio, un periodo che voi definite un'unica celebrazione, la più importante dell'anno, non solo nel calendario liturgico ma anche in quello folclorico, in cui gli elementi arcaici e pagani si sommano agli esiti della cristianizzazione, un'unica festa motivata dall'essere un capodanno. Ecco, in che cosa consiste la particolarità di questo periodo che si apre tra poche ore? Ma come tutti i capodanni arcaici, non si risolveva nel passaggio di un secondo, come succede per noi oggi, ma nell'arco appunto di un dodecameron di 12 giorni, che erano la differenza fra l'anno del calendario solare e l'anno del calendario lunare, e quei 12 giorni si riteneva non appartenessero né all'anno vecchio né all'anno nuovo, ma fossero appunto un tempo speciale, una sorta di tempo magico durante il quale si confondevano un pochino gli opposti, cioè si confondevano normale e soprannaturale, terreno e ultraterreno, passato, presente e futuro, e soprattutto si riteneva che si confondessero mondo dei vivi e mondo dei morti, perché veniva meno la barriera che li separava, e quindi le entità inferiche e le anime e gli spiriti dei trapassati potevano tornare nella dimensione terrena. Questo da una parte esigeva tutta una serie di riti di accoglienza, perché tornavano i benevoli antenati, che erano i nomi tutelari della famiglia, della casa, del campo, eccetera, ma allo stesso tempo irrompevano nella dimensione dell'uomo anche entità più inquietanti dalle quali occorreva difendersi. Per questo il libro l'abbiamo intitolato Tenebroso Natale, perché appunto a questo periodo celebrativo portava con sé anche una serie di rischi, di inquietudini, e non era un periodo improntato solo al festoso, ma al festivo. Questa è una distinzione cara agli antropologi culturali, nel senso che festoso significa allegria, ma festivo significa passaggio, festa con la F maiuscola, che è anche dramma, che è anche rito, che è anche sacrificio. Ecco, il vostro libro parte illustrando la concezione del tempo, nonché dalla reinterpretazione che il cristianesimo fece di molte feste pagane, quindi continuano queste tradizioni pagane. Ma sì, io credo che se noi oggi andiamo a guardare quali sono gli elementi attraverso i quali ognuno di noi, ognuna delle nostre famiglie, case, celebra il Natale, vedremo che molti degli elementi rituali sono in realtà di origine pre-cristiana e quindi pagana. L'albero di Natale non è un elemento cristiano, bensì il sempreverde che anche nell'inverno mantiene inalterato il proprio vigore, sopravvive quindi alla cattiva stagione, ornato di pale colorate che rappresentano il sole che rinasce nel momento del solstizio d'inverno, è appunto un elemento pre-cristiano. Come lo sono le luminarie che nel momento solstiziale dovevano implorare e richiamare la luce del sole che rinasceva e allo stesso tempo difendere da quelle entità inquietanti di cui dicevamo prima. Lo sono i botti, che sono i botti di Capodanno, un rumore apotropaico per difendersi dagli spiriti maligni. Lo sono i doni, che già i romani chiamavano come noi strenne. Lo è la Befana, che rappresentava in un unico personaggio tutti i defunti che il 6 gennaio dovevano abbandonare la dimensione terrena per tornare al loro regno dell'aldilà. Insomma, se noi andiamo a vedere, in realtà nelle nostre case, al di là della individuale devozione e religiosità cristiana, l'elemento rituale cristiano che noi approntiamo è solamente il presepe. Tutte le altre cose provengono da un passato più lontano, perché il 25 dicembre e in generale questo periodo, questo Dodecameron, era festa prima del cristianesimo, prima che la Chiesa sovrapponesse a quella data già esistente la celebrazione della nascita di Cristo. Il 25 dicembre si festeggiava già una nascita mistica, la nascita del sole al momento del solstizio, quella festa che i romani chiamavano Dies Natalis Solis Invicti. Nell'impero romano poi si era diffusa la celebrazione di una divinità solare orientale, Mitra, che nasceva da una vergine il 25 dicembre, quindi non solo una concomitanza di data ma anche di contenuti per facilitare il passaggio dalle religioni pagane a quella cristiana. Ma a proposito di riti che continuano o che non continuano, uno che si è estinto è quello che voi ricordate del Capodanno romano, la giornata in cui tutti dovevano lavorare come buon auspicio perché si lavorasse tutto l'anno. Nelle tradizioni di tutte le regioni, io parlo per esperienza, per la mia Romagna, ancora quando io ero piccolo, i contadini nel giorno di Capodanno facevano un pochino di tutti i lavori proprio per propiziarsi la loro riuscita nel corso dell'anno che sarebbe venuto. Quindi anche questa tradizione ci ha accompagnato fino a tempi molto recenti. Ecco, una figura particolare sulla quale voi vi soffermate è quella della Befana, la citata. Ecco, che continuità c'è a proposito di questo personaggio, di questa festività? Beh, diciamo che nel ruolo di portatori di doni poi nel tempo sono subentrati altri personaggi. Forse oggi, in virtù di una sorta di globalizzazione, prevale Babbo Natale, che deriva da San Nicola, da Santo Claus, un portatore di doni che poi negli Stati Uniti assume le caratteristiche e l'aspetto che noi oggi gli riconosciamo. Oggi ci viene in mente, pensando a Babbo Natale, quello vestito di rosso, pacioccone, con i capelli bianchi, semplicemente perché questa era l'immagine che i disegnatori gli avevano dato negli Stati Uniti per una pubblicità di una bevanda. E quindi c'è una circolazione anche iconografica. La Befana, che in Italia era il portatore di doni per eccellenza, oggi deve dividersi questo ruolo con altri personaggi, appunto Babbo Natale, e poi c'è anche una tradizione cristianizzata in cui individua in Gesù Bambino il portatore di doni. Ecco, nel viaggio che avete fatto nelle tradizioni italiane, quali sono le tradizioni più trasversali e più vitali ancora ai nostri giorni? È sparita la tradizione natalizia italiana per eccellenza, che era il ceppo di Natale, cioè il fatto di fare ardere un grosso ceppo di legno nel camino il più a lungo possibile dalla vigilia di Natale in avanti, per arrivare quando la dimensione del ceppo lo consentiva fino all'Epifania. Oggi questa tradizione è praticamente scomparsa anche in virtù dei cambiamenti delle strutture abitative, non ci si riscalda più col camino ma con altri mezzi. Probabilmente la tradizione che ha preso il sopravvento e che ha sostituito, per rimanere poi sempre in ambito arboreo, è quella dell'albero di Natale, che probabilmente nasce in ambito nordico e che anche questa ha avuto una circolazione e una diffusione in tutto il mondo. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. In vista delle giornate tranquille che spero potrete trascorrere leggendo qualche libro, vi propongo delle letture un po' rilassate. E allora, dopo Il maestro dei fantasmi di cui abbiamo parlato, vi propongo un altro grande autore britannico, autore di novelle e romanzi che sono diventati talora dei film famosi che hanno incantato adulti e bambini, e cioè Roald Dahl. Il libro che vi propongo si chiama Il cantastorie, è praticamente la sua vita, e il libro è stato scritto da Donald Starrock, che è uno scrittore e regista britannico che tra l'altro ha ricavato delle opere liriche da alcuni capolavori di Dahl. Il libro è pubblicato da Odoi a 480 pagine, 26 euro, ed è tradotto da Barbara Sonego. Come scrive Goffredo Fofi nella prefazione, la piccola grande novità di Dahl è stata quella di assumere, come in passato accadeva, il punto di vista dei bambini o di adulti che non hanno perso il senso dell'infanzia, che confutano la cosiddetta maturità degli adulti colti. E nella biografia troviamo il percorso di un autentico mito della letteratura moderna e un viaggio anche nella moderna civiltà letteraria britannica. Da questo libro di Starrock vi propongo alcune righe sull'opera forse più famosa di Roald Dahl, cioè La fabbrica di cioccolato. Poco prima della morte di Olivia, aveva ribattezzato la sua ultima storia La fabbrica di cioccolato e aveva reso molto più consistente il suo protagonista, Willy Wonka. Il genio sovrumano con la capacità di creare i dolci più bizzarri e divertenti che il mondo avesse mai visto. Questo mago stravagante, per il cui nome Roald si era ispirato a un boomerang chiamato Skilly Wonka, che il fratellastro Lewis gli aveva costruito da piccolo, aveva una personalità molto simile a quella del suo creatore. Era volubile, divertente e brillante. Era un adulto, ma con la sensibilità di un bambino. Era privo di sentimentalismo. Era spassoso, riservato e sfuggente. E aveva un lato oscuro. I bambini cattivi che si comportano male nelle sue sale delle invenzioni verranno schiacciati, allungati, trasformati in enormi mirtilli o bolliti nel cioccolato. Willy Wonka è forse uno dei personaggi più memorabili che Roald abbia mai creato. Un uomo che vive secondo le sue regole, all'interno del proprio regno, in apparenza al sicuro dal mondo al di là dei muri della sua fabbrica. Quando Roald chiuse finalmente la porta della capanna, tirò le tende e accese la lampada a braccio, anche lui si ritrovò in un mondo che controllava completamente e dove nessuna sorpresa sgradita poteva disturbarlo. Inoltre c'era anche il fatto rassicurante che tale universo immaginario fosse incentrato su una cosa che adorava, il cioccolato. Se volete divertirvi con un altro autore divenuto di culto, è infatti l'autore del libro Zia Mame, cioè Patrick Dennis, vi segnalo un libro davvero esilarante pubblicato da Adelphi che si intitola Genio, 330 pagine, 19 euro, tradotto da Maria Grazia Gini. Qui il protagonista è un giovane sceneggiatore americano che racconta del suo turbolento rapporto con un regista geniale ma assolutamente scombinato, inseguito da mogli, creditori, fisco di mezzo mondo, che a un certo punto cerca rifugio in Messico, si incrocia appunto con il narratore del libro e in Messico il regista vuole realizzare il film che dovrebbe riscattarlo e dovrebbe anche consentirgli di pagare la montagna di debiti che ha disseminato per il mondo. E troviamo nel libro una serie esilarante di avventure, al centro delle quali c'è appunto Leander Starr, una figura che pare ispirata a quella di Orson Welles. Il regista protagonista del libro è anche un grande attore, come dimostra in questa scena, quando all'improvviso gli piomba in casa una figlia che nemmeno si ricordava di avere, dinanzi alla quale però è capace di orchestrare questa scena madre. Un'ombra cadde sul tavolo della colazione. Tutti ci voltammo. Star si ergeva maestoso sulla soglia, bianco alle tempie e strizzato all'inverosimile dentro un bustino. A giudicare della sua statura imponente, sospettai anche dei rialzi nelle scarpe. Dava l'idea di un adeguato compromesso tra la salma e il becchino. Con un tight che, come lui, malgrado l'età e la fatiscenza generale, aveva ancora un bel po' di frecce al suo arco, si stringeva sul cuore un libricino di preghiere. «Bambina adorata, perdonami se non mi sono precipitato subito da te, così come mi trovavo, in déshabillé. È stato il mio primo impulso, ma poi ho pensato no». E mi sono recato alla nostra chiesetta anglicana per offrire il ringraziamento di un umile padre al nostro Signore, che gli ha portato la sua adorabile bambina sana e salva. Mi venne il voltastomaco. Emily si alzò tremante. «Oh, papà!» In tre giganteschi passi, Star attraversò la stanza. Emily gli si gettò incontro. Il vecchio manigoldo lasciò cadere con un piccolo tonfo il libro delle preghiere, che a un successivo esame scoprì dedicato a Albert con amore da zia Bessie, e strinse la figlia tra le sue braccia esperte. Diedi a mia moglie un calcione da sotto il tavolo, ma quando mi guardò, vide che aveva gli occhi pieni di lacrime. Andai a farmi un giro. Vi propongo poi due biografie scientifiche. La prima è a fumetti ed è di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni. È dedicato a una delle figure più importanti della matematica contemporanea. Si intitola Enigma, la strana vita di Alan Turing, pubblicata da Rizzoli Lisar, 120 pagine, 16 euro. Un grandissimo matematico, Turing, dicevo, nato in Inghilterra, che aveva contribuito durante la Seconda Guerra Mondiale a decodificare i codici cifrati dei tedeschi. Lavorò quindi molto per i servizi segreti, fu tenuto sotto controllo per queste ragioni per molto tempo, e questo sconvolse anche la sua vita, che si concluse tragicamente perché Turing pare si suicidò addentando una mela avvelenata in seguito alla depressione che gli avevano procurato le terapie alle quali era stato costretto per curarsi, tra virgolette, dell'omosessualità. E fra l'altro avrete letto qualche giorno fa dell'appello che hanno lanciato molti scienziati, soprattutto inglesi, per riabilitare l'immagine e la memoria di Turing. Turing fu però molto di più che un uomo che lavorava per i servizi, fu infatti uno dei padri dei computer e in pratica dell'intelligenza artificiale, quindi una vita straordinaria le cui scoperte sono alla base della scienza e della tecnica moderna. L'altro scienziato, l'altra biografia, anzi un'autobiografia, è quella di un altro personaggio difficile, misterioso e controverso, e cioè Nikola Tesla, un geniale scienziato serbo che fu tra l'altro collaboratore prima e concorrente poi di Edison, essendo stato lui stesso uno dei più geniali scopritori della storia. Il libro si intitola Le mie invenzioni, autobiografie di un genio, pubblicato da Piano B, 120 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Antonio Tozzi. Questa vita fu pubblicata a puntate su un giornale americano nel 1919. E ci consente di avvicinarci a un'altra personalità molto complessa e tormentata e di riconoscere tuttavia il ruolo fondamentale che Tesla svolse nello sviluppo della scienza moderna. Vi segnalo poi un grande classico italiano, e cioè Leonardo Sciascia, di cui Adelphi pubblica il primo volume delle opere dedicate alla narrativa, al teatro e alla poesia. E questo volume conta 2024 pagine, costa 80 euro e vi troverete dei capolavori assoluti del grande scrittore siciliano come Il giorno della civetta, Il consiglio d'Egitto, Todomodo e tanti altri scritti. E quindi questo tomo, il primo di una serie, è uno strumento importante per riaccostarci a un grandissimo autore, importante per il valore letterario naturalmente, non meno che per il costante impegno civile, per esempio sul tema della giustizia, che lo stesso Sciascia considerava centrale nella sua riflessione, come dimostrano queste righe del 1985. Ho dedicato sempre molta attenzione al problema della giustizia, dell'amministrazione della giustizia. Posso anche confessare che in determinati momenti ne sono stato e ne sono ossessionato, come al presente. Con una certa assiduità seguo perciò le cronache criminali e giudiziarie, quelle che i francesi chiamano dei fatti diversi. Ma tra le cronache di delitti e processi, a parte quelle in cui si intravedono i possibili e probabili errori polizieschi e giudiziari, qualche volta ho indugiato con l'immaginazione su quelle che era possibile rovesciare, vedere da un punto diverso e opposto, mutuare e mutare l'identità dei colpevoli e delle vittime. E a questo punto Il confettino. E concludiamo naturalmente con un libro natalizio scritto da Ivano Argento e illustrato da Fabrizio Zubani. Si intitola Il Natale degli Angioletti, pubblicato da Paoline, 58 pagine, 15 euro. Sono 5 racconti sul Natale, di cui sono protagonisti 5 angioletti che spiegano ai piccoli lettori i fondamenti del Natale cristiano. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, vi auguro buon Natale e vi do appuntamento alla settimana prossima.